penso che sarebbe giusto che fosse organizzato un sistema antifrodi, chiamiamolo così in senso generale, dove fossero partecipi di questa, diciamo, di questo centro, fossero partecipi quelli delle scommesse, che ci siano gli organi federali ovviamente, e ci fosse anche un raccordo con la Polizia di Stato, in modo tale da poter dare queste segnalazioni. In alcuni paesi dove è stato instaurato un centro antifrodi così, hanno notato che effettivamente i giocatori, come è stato giustamente detto, e invece di parlare al numero verde, alcuni giocatori, sotto ovviamente richiesta, perché sanno che c'è anche appunto un centro organizzato per prevenire le frodi, hanno spontaneamente raccontato, oppure anche su richiesta hanno raccontato alcuni fatti che hanno portato, diciamo, a sventare una partita che poteva essere manipolata. Perciò ritengo che ci sia da fare un'attività anche preventiva, e che sia molto utile un'attività preventiva come quella, anzi, anche iniziale del numero verde, e mi permetterei proprio di suggerire di integrarla perché qui i gestori delle scommesse, noi compresi, ma direttamente anche l'AMS, che gestisce tutto il settore del regolamento del gioco e delle scommesse, possono dare gli allarmi necessari. A seguito di questi allarmi, chi ne ha i poteri dal punto di vista sportivo può compiere le proprie indagini. Qualora le proprie indagini portassero a un risultato effettivamente abbastanza veritiero nel discorso sportivo, poi potrebbe raccordarsi con la Polizia di Stato in modo tale che ci possa essere veramente una punizione che scoraggia coloro che potrebbero voler mettere mano a un risultato sportivo.